scorsi del me, o mai di chi alla vista dei vassalli ostinato il soldan, zeli blerete, tentare pria condamina, render vano, voli suo tentato, poi si inutili fino altro miglior, irrisoluto ancora partito prenderem. Ma tu addavina vuoi prestar fede? E la mirà che in sogno sieda suo figlio. No, che mal sicuro, il vide dal furore di